Ore 7:53 secondi dall'orologio di Rock FM. Chi vi parla è l'Ariele, che vi augura il buongiorno, ma che chiede immediatamente la sigla di quest'oggi, puntata 138. Bisogna andare in fretta e furia perché abbiamo già ospiti in studio. Sì, sì, già alle 7 del mattino ci sono gli ospiti qua. Pane, burro e rock and roll. E non sto parlando di Fricantoni. Ah no, a colazione rock. Quello lì non è ancora mica arrivato. Pane, burro e rock and roll. Quello arriva con calma, con l'Eurostar. Chissà mai se arriva. Ma se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino siamo qua a servire la colazione di Rock FM. Dicevo, ospiti, abbiamo dato delle indicazioni nella puntata di ieri, però vi ricordo che è martedì, quindi solitamente il martedì sentiamo Carlo della tabaccheria per i numeri dell'otto. Vi do un'altra indicazione, c'è una fedelissima radioascoltatrice che non gliene può fregare di meno della musica che passiamo, che non gliene può fregare di meno delle cose che diciamo, ma è interessata solo ai numeri dell'otto. Che magari è venuto a trovarci insieme a Carlo, ma restate con noi. Beatles a chiedere aiuto anni fa con questa Help, e invece siamo noi a chiedere aiuto in questo martedì 27 di novembre a Carlo il tabaccaio. Ciao, eccomi qua. Non ci accontentiamo più della linea telefonica, viene a trovarci in carne ed ossa per i numeri dell'otto. Ma Carlo, diciamocela tutta, non ce ne frega niente che sei venuto tu. La cosa importante è che è venuta anche la signora Carla. Bentornata. Buongiorno a tutti. Come sta, signora Carla? Bene. Tutto a posto? Sì. Allora, raccontavo alla signora Carla cos'è accaduto nella puntata di ieri. Abbiamo accennato, abbiamo spiegato che Carla questo vizio dei numeri dell'otto l'abbiamo già detto. Ma soprattutto ci raccontava Carlo che per controllare se i numeri dell'otto usciranno oppure no, lei si diverte, ma in maniera giocosa, getta giù dei tarocchi e decide se questi numeri escono oppure no. Delle carte. Ieri abbiamo detto che sarebbe passata in radio per controllare se i numeri sarebbero usciti e qualcuno ha commentato: no, ma cos'è sta storia della maga Rock FM? Ma quale maga? Ma dove ve le inventate le cose? Signora Carla ha mai fatto la maga in vita sua? No. Oh. Da quanti anni? Non voglio fare la maga, ecco. Non sono mica la Marchi. Esatto, che va a finire anche male, rischia. Che dopo vuoi finire preso. Allora, come funziona sta cosa però? Comunque delle carte legate ai numeri. Le carte, è un gioco che si diverte, basta. Ma tipo, io dico... Si mettono giù 10 carte, se esce il numero che diciamo, escono i numeri. Tante volte escono, tante volte non escono. E i numeri che ha segnato sul foglietto, da dove saltano fuori, li ha detti Carlo? Li abbiamo scelti sul mangiare che abbiamo fatto. Sì, diciamo, questi numeri li ho proposti io in funzione di quello degli atteggiamenti, delle attività della nostra amica Carla, in sostanza. Ovvero? Perché domenica ho fatto la cassola. No! E non ci ha portato un pezzetto di cassola? No, perché dice così? È venuta male? Ah, non lo so, io non me ne intendo. È venuta bene. Però c'ho anche la figlia da dargli. Ah, però tra l'altro e già allora Carlo? Alle 7:30 giustamente Garavelli mi sa il segno che la cassola non stava proprio benissimo. Ma se ce la porta anche surgelata, io e Garavelli poi la mangiamo a pranzo. È pesante quella. La signora Carla fa la cassola, ditemi voi. E allora il signorino Carlo, perché è più matto di me, ha detto facciamo, guardiamo ai numeri. No, perché esiste un numero legato alla cassola. Sì. Ma come sì? Ti giuro, l'ho trovato. E ha guardato sul libro di, sul libro dei dei numeri della cassola. Allora, i numeri della cassola. Sì. La Desenbergamas. È 77. Le gambe delle donne. Bene. I tarocchi, la dice a Carlo. Ah, ok. Che è il 26. Ok. E la Carla, che la fa la cassola, gli è 46. Come si fa a dire che il numero Carla è 46? Perché c'è l'abbinamento. C'è l'abbinamento dei nomi con i numeri. Dei nomi. Perfetto. Adesso vediamo se questi numeri escono. Perfetto, ma è un in gioco. Diretta su Rock FM, un gioco, ma è un non gioco. È una maga, mannaggia. Non siamo voi. Maghi. Oh. Mettetelo nella vostra testa. E c'ha ragione la signora Carla Garavelli. Se allora, le danno della maga, guarda. Carluccio, sì. Di un numero da 1 a 21. 19. E vediamo ha detto i numeri. 19. Dalla cassola si escono. No, ma cos'è? No, ma se lui ha detto il 19 non è il 46. Non c'entra, i numeri che abbiamo dato. 46, 26, sì, io non ci capisco, lasciamo sparare lei. Che numero hai detto? 19. 19. Allora io faccio sapere che è uscita la luna, ah no, ne sta girando a 3 a 3 una sopra l'altra, fino a quando non esce. Esce! È uscito il numero 19. Però lei l'ha detto un po' ridendo come se non ci credesse nemmeno lei. Io ho un colpo di culo incredibile. Non pensavo che usciva, sono sincera, invece è uscito il 19. Ma il 19 non è uno dei tre numeri che abbiamo dato. Non c'entra. Allora... Questi sono i numeri che abbiamo dato. Track, messi là. E non c'entra niente il con 19... quello che abbiamo fatto del gioco. Esatto. Il 19... Se il 19 esce sulle carte che mettiamo giù... Sì. Vuol dire che l'abbinamento del numero... Dovrebbe essere giusto. L'abbinamento degli numero altri proprio... numeri senza il 19. Esatto. E non ci filiamo anche un 19 che facciamo la quaterna? No, non c'entra no. Niente quello. No. Posso provare anch'io con un... No, oh, è già fa... No, a dire un numero, vedere se sì. Esce. Allora ci provo anch'io. Io, Garavelli, consigliami un numero da 1 a 21. Dimmelo con la... Sì, 10... ma... 15. Sì. Diao. Cos'è 15? Il diavolo. Diavolo. Ma davvero? Bravo, Garavelli, complimenti, eh. Davvero metallare. Ma su che numeri vuole? Sempre su quei... Ah, non po... Sempre su sempre quei tre su lì. Questi, sì. Vabbè. Anzi, sì, su quei tre lì. O facciamo quelli dei serpenti? I parenti, no, su quelli lì. I parenti serpenti ce li siamo già giocati. Allora, ricordo a chi è all'ascolto che stiamo controllando i numeri del lotto che usciranno oggi. Ci sta aiutando Carla, la nostra ascoltatrice che ci ascolta solo non per i numeri. Non viene fuori. Aia. Cosa non viene fuori? Quei tre là. Perché il 15 non è uscito tra le carte. Il 15 girato. Non è uscito. Il diavolo. Faccio un il gran diavolo. Casino. Intanto abbiamo scoperto che il 15 è il diavolo, però. Vede che non si può spiegare. Al telefono. Ma per forza. No, già fa un casino. Vedi? Così non capiamo niente noi. Già un casino. Ma vuoi che capi... Cosa vuoi capire te, Carlo? Te capisci te in casa? Sì, esatto. Signora vede Carla. Il diavolo? L'ho visto, sì. L'Ember Fio quello lì, tra l'altro. Sì. Ma sono due diavoli, sono. No, che ne vi, diavolo. Quell'altro era... Quell'altro brutto cattivo. Va bene, io controllo le carte con la signora Carla. Intanto vi saluto. Buon proseguimento di giornata. Ciao grazie a tutti. Per essere parlati. Ciao a tutti e buon Natale. Vi dico buon Natale, assolutamente. Alla prossima. Non lo so se vengo ancora. Come no? Ma si vedrà con la cassola, tra l'altro. No.

Allora, amici radioascoltatori e radioascoltatrici che ci porgete l'orecchio, abbiamo superato lo scoglio del lunedì e siamo pertanto allo splendido martedì 27, viva! Ah, che gioia vederla così bella in forma, pronto pimpante. Per un almanacco del giorno che fu! Esatto, e oggi mi sento pimpante! Oh, sarà contento perché iniziamo ricordando un accadimento del 1895 riguardante il grandissimo Alfred Nobel! Cosa? Che ringhia, maestro! Lei Nobel non è mai stato particolarmente simpatico, eh? Proprio... Sono anni che aspetto questo riconoscimento, eh? Arriverà, maestro, se si fidi. Il 27 novembre accadde che Nobel sottoscrisse il primo testamento con il quale istituisce i riconoscimenti noti come premio Nobel. Sono sicuro che c'era, sì, c'era una postilla, sì, nella quale il grande Nobel, sì, ricordava il degno riconoscimento al rock demenziale. Ah sì, e qualcuno la deve aver cancellata, maledetto, ma lo maledetto scopriremo. 1922, Howard Carter e Lord Carnarvon diventano le prime persone dell'era moderna a entrare nella tomba del faraone egiziano Tutankhamon. Evviva, speriamo abbiano bussato, perché sì, la privacy va sempre rispettata, soprattutto la privacy di un faraglione. Cioè, no, faraone, un faraglione sono un'altra cosa. 1934, torni nel corpo di Fricantoni per commentare il rapinatore di banche Babyface Nelson, che purtroppo morì in una sparatoria con l'FBI. Babyface, faccina! Ah, faccina criminale. Un rocker a modo suo, insomma, forse è un po' esagerato, eh? Un filo esagerato, Babyface Nelson. Diamo, perché non dargli la patente honoris causa a quest'uomo che ha dato il peggio di sé per tutta la sua vita? E quindi se la merita. Se la merita, è stato coerente. Chiudiamo in bellezza, invece veniva pubblicato nel 1970 il triplo album solista di George Harrison, All Things Must Pass. Se lo ricorda? Tutte le cose devono passare. Oh my Lord, my sweet Lord. C'era anche la canzone My Lord. Sì, sì, sì, che fu accusata di plagio. Purtroppo sì. Ed ebbe ragione l'accusatore, perché in effetti ricordava molto She's So Fine. Però George l'aveva citata, via, difendiamolo così. Forse l'aveva citata, comunque ha dovuto sborsare qualche sterlinuccia, qualche dollaruccio per far fronte a questa causa persa. Beh, tanto ce li aveva, via. Ma sì, poi ha fatto anche delle canzoni stupende, anche Oh My Lord è una, Oh My Sweet Lord è una bellissima canzone. Ne ricordo altre, per esempio Thanks for Pepperoni, eseguita col grande Eric Clapton, Slow Hand. Un applauso a entrambi. Viva! Evviva George! Io t'attira, ti t'attira!